Suona la sveglia in stanza, dai spegni il cielo e basta. Stacca il wifi, metti l'iPhone in tasca. Mode offline, vedi che il mondo non casca. Ma ti senti fuori luogo come fossi il nuovo Kafka. Ho già finito i giga, sta vita è una fatica. Forse ha finito i giga, perciò non scrivi amica. Hai visto quella tipa, aggiungi come amica. Ma ho già finito i giga e non mi aggiunge mica. Stai, per certo, io no, non dipendo da piccole icone che stanno là sole sul desktop. Mi riprendo, sorridendo, poi attendo, un po' fremendo il caricamento del file sul social del momento. Ma aspetta mo, leggo un post, non mi piace neanche un po'. Condivido e scrivo un tot, copio incollo frasi top. Fatto, mi sento affranto. Nessuno che like, vi prego fatemi un applauso. Ho già finito i giga, sta vita è una fatica. Forse ha finito i giga, perciò non scrive mica. Hai visto quella tipa, aggiungi come amica. Ma già finito i giga e non mi aggiunge mica. Con il pollice c'ha la faccia da coccige. Abbigliamento nobile, arreda meglio di un mobile. Affabile quando scrive in chat con le tipe frivole, ma sbaglia tutte le H, persino le virgole. Poi fa il grosso, si gonfia sul posto. La posa da posto, non so se la posto. Ma come siete ridotti voi qua? Camminate per le strade, quello schermo è la vostra realtà. Ho già finito i giga, sta vita è una fatica. Forse ha finito i giga, perciò non scrive mica. Hai visto quella tipa, aggiungi come amica. Ma già finito i giga e non mi aggiunge mica. Sta vita è una fatica, forse ha finito il giga, perciò non scrive mica.